Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, non mi rompere scatole, eh. Oggi le notizie non sono quelle che vengono dalla politica. Sì, ci saranno anche quelle, ovviamente, le discussioni eterne sulle proposte di Renzi, eccetera, eccetera. Oggi la notizia principale... Lo capisco dalla musica che hai scelto come... Ah, già l'hai capito. Antre. Ero a Fiumicino in quelle ore, figurati. Aerei a Fiumicino mentre fermavano la signora Gagliardi, cosiddetta dama prima, bianca. Poco prima che ho visto c'è un movimento inutile. Ma non hai visto niente. No, a Fiumicino. Ma quale che hai visto a Fiumicino? Sono atterrato. Allora, se vuoi, io ho fatto il cambio, inizia a introdurre l'argomento. Poi io ho fatto il cambio dell'aereo Strasburgo-Parigi. Poi ho preso Parigi-Orly-Roma. Vabbè, sei arrivato mentre stavano sequestrando la cocaina. No, mentre c'erano dei sembrava di stare in un coso di cani, un allevamento di cani. Non capivo che c'è tutta sta polizia, sta guardia di finanza con i cani. Cari non amici, mai visto tutti quei cani io. Popolo della radio, Federica Gagliardi, cosiddetta dama bianca, mai nome a questo punto fu così bianca appropriato. Dai, su, ma non si sa niente ancora. Ho un raffreddore. Sei già... Ma sei proprio, sei un cane proprio, sei già giustizialista. Ho il naso. Dai, ho il naso. Che vergogna. Ho le mucose. Ma che vergogna, ho le mucose rovinate. Cosa vuoi? Fermata a Fiumicino con che 24. Fermata a Fiumicino. Che vergogna che sei, guarda. Perché la Gagliardi? Ironia, perché la Gagliardi? Fermata, fermo, fermata a Fiumicino con 24 kg di cocaina. Accompagnò Berlusconi a G8 e G20. No, vabbè, questo non ci interessa. No, beh, no, non ci interessa. Altrimenti, se uno viene sequestrato, se uno viene fermato a Fiumicino con 24 kg di cocaina, chi se ne frega? La cosa interessante è che li portava dentro un trolley, no? Tranquillo, cioè serena, tranquillo. Cioè, ma infatti, questo mi fa venire molti sospetti. Esatto, questa è la cosa curiosa. Comunque fu intervistata qui alla Zanzara, momento memorabile, qualche tempo fa, quando si scoprì appunto che c'era una dama bianca, fu soprannominata così, con Berlusconi, credo al G8, al G20, eccetera, eccetera. Senti a un certo punto che ci espone, c'eri tu o non c'eri, forse sì, il suo curriculum, 6 luglio 2010. Io lavorerò ufficialmente da un mese alla Regione Lazio, però nel mio curriculum ho diverse esperienze che mi hanno formato e mi hanno portato a determinati ruoli. Non è che dal nulla sono arrivata poi a ricoprire il ruolo che ricopro ora alla Regione. Io vengo da diversi anni comunque di collaborazione all'interno di un ufficio legale. Io sono laureata in giurisprudenza. Se fossi brutta non avrei fatto notizia. Fossi stata brutta sicuramente non avrei fatto tutta questa notizia, ecco. O comunque la notizia sarebbe stata il 70% in meno. Ah, in politica non escludo nulla, la dama bianca. Per quanto riguarda l'attività politica, al momento non so dirglielo. Io non escludo nulla. Se mi fosse data l'opportunità di poterlo fare, ne terrei conto. Che parlano di te. Polemiche su che cosa? Allora, Vladimir Luxuria qualche anno fa in una trasmissione televisiva ha ricevuto pesanti attacchi da parte di Alessandra Mussolini. Facciamo risentire il pezzo che è famosissimo, in cui la Mussolini dice a Luxuria: meglio, te lo ricordi Parenzo, meglio Forse su. Ah, era meglio cosa che gay. Che sì. Meglio che gay, meglio? Che lesbica. Che adesso, trans. Fai ridere. Dai, su, amico mio. Meglio adesso te lo sentiamo. Perché si veste voi, da donna e credi scusa, di poter dire, la prego, quello prego, quello Mussolini, vi prego, ma voi non siete stati, mi costringete a chiudere lì, non siete stati in grado di dire una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale, quanti immigrati ogni anno? No, per favore, per favore, per favore. Se ne prendiamo a. Per favore, ricominciare da per favore. Questo è il prossimo che... governo, dopo il culattone molto di Tremaglia c'è il frocio di Alessandra Mussolini. Molto bene, grazie. Scusa, per favore. Allora, cosa scrive Luxuria su Twitter? Non mi piace inferire su un dramma in famiglia, ma la vicenda Mussolini insegna che prima di giudicare gli altri è meglio guardarsi attorno. Beh, vabbè, questo. Vabbè, vabbè. No, questo mi sembra. Poi io, aspetta, poi Luxuria, fermo, poi ritwitta. Cara Vladimir, credo sia ora di una bella t-shirt del tipo meglio frocio che pedofilo, da recapitare direttamente alla Mussolini. Vabbè, giudicate voi, eh. Io sono contrario a quelli che dicono non bisogna mettere in mezzo Alessandra Mussolini. Purtroppo, una persona famosa, quando un suo familiare incappa in una storiaccia tremenda come questa, viene messo in mezzo. No. Mi dispiace. No. Sì. Mi dispiace. Solo qualora venisse provato. Ma viene che messo lei in mezzo. Sapeva. Viene messo no, in mezzo no, comunque. No, no, è vergognoso, vergognoso. Ma cos'è vergognoso? È normale. No, no, è vergognoso. Io ma cosa è vergognoso? Non bisogna fa schifo. Non bisogna fa schifo citare perché... Alessandra Mussolini, non no, bisogna io citarla. Io sono il primo che come sai si ma non ho capito, per secondo le te no... come mi accusi più ma volte. Ma non ho capito, no, non bisogna accusato... citarla. No, no, scusami, io non ho capito cosa bisogna fare. Comunque ne parleremo nel corso no, della no, ma cosa bisogna tempo. Fare secondo te? Non abbiamo ho capito. Tempo, andiamo avanti. Abbiamo non ho capito tempo, cosa bisogna avanti. Fare secondo te. Non bisogna citare no, Alessandra è Mussolini. Totalmente ininfluente il non fatto bisogna citarla. Allora, che la il marito di una coinvolto okay. sia la signora Mussolini. È totalmente bravo, ai fini bravo. Penali finora. Hai scoperto irrilevante. Per la prima volta no. scopre il valore della privacy. No, ma col cavolo. Ma che privacy? Col cavolo. Si parla dell'inchiesta su di lui. Finita, non occorre su. Rispolverare cosa disse la Mussolini su questo no, questo argomento. Non c'entra niente. Ho detto non che è normale occorre... citare la Mussolini. Infatti, secondo me sbaglia Vladimir. In questo caso sbaglia profondamente. Ma questo è un altro Vladimir. Discorso. Sto dicendo. Eh no, perché è legato, l'hai fatto sentire ora. È legato, è evidente che sbaglia. La Boschi torna. Stai zitto un attimo. La Boschi torna sulla vicenda Lucci allora, dicendo è stato pesante Lucci. Scuola. Quando invece ci sono dei modi di rivolgersi ad una donna come quelli che Lucci ha avuto nei miei confronti, onestamente si va un po' oltre, perché non credo che sia giusto far trovare nessuna donna in quella situazione. È andato un po' oltre, è stato un po' pesante, perché lì effettivamente si è mancato di rispetto, quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Lucci manca di rispetto a tutti, cara signora Boschi. Per cui so che fa bello anche a sinistra dire Lucci è andato un po' oltre, ma Lucci va sempre oltre e parla sempre di sesso, mi dispiace per lei. Coca-Cola. Beh, vi faccio sentire quello che ha detto ieri sera la Zanzara Lara Comi a proposito del ministro Madia. Aveva già detto una volta che secondo lei non era giusto farla ministro perché incinta, non si può seguire la riforma della pubblica amministrazione. Questa volta è andata un po' oltre, ha detto... Ha paragonato una persona incinta a uno che si rompe la gamba e non può fare i 100 metri. Dovendo fare una riforma ad aprile per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi essendo al termine della gravidanza, secondo me sarà difficile. Ma ad non aprile, è difficile. Semplice, ma sì, ma è come normale, se tu, non difficile. Ma no, normale. Ma come se tu ti rompessi una gamba, corri i 100 metri? No. Eccoci, 800 24 00 24, è con noi la donna delle polemiche di queste ore per alcune proposte che ha fatto, Maria Teresa Baldini, buonasera. Buonasera. Come sta? Io sto bene. Consigliere leghista della lista Maroni, presidente in Regione Lombardia. Parenzo, comincia subito a... Che cos'hai? No, leggo nel dettaglio il dossier della allora, del no, consigliere. Dico subito qual è il titolo di questa cosa. La signora Baldini, onorevole Baldini, insomma, chiamiamola no, come sono volete. Sono onorevole, sono consigliere, sono un medico. Consigliere medico. Ma medico ci interessa poco. Lei ecco. ha detto... No, beh, in questo caso pare che la cosa rilevi, abbia importanza. Ci sono delle mense a rischio. C'entra molto di più. più dell'altro, perché sa, qui bisogna sì, un attimo solo, mi faccia dire una cosa. Allora, lei sì. ha detto che le mense della Lombardia sono a rischio di infezione. Io ho fatto un emendamento, una progettualità. Vabbè, però ha detto questo in sostanza. No, leggete bene. Con gli immigrati in cucina le mense sarebbero a rischio, questa è la sostanza. E dunque bisogna fare dei controlli, giusto? No, con tutte le persone, non solo gli immigrati, non solo Vabbè, stranieri. Però lei ha detto la parola stranieri. No, a tutti dobbiamo fare controlli, anche stranieri. No, lei perché ha detto problema, con particolare oggi, attenzione. Mi scusi, però perché torna indietro su quello che ha detto? No, io guardi che non torno mai indietro. Appunto, per questo. No. Leggere bene le mie con particolare attenzione alle problematiche infettive dovute anche all'impiego di personale immigrato. Cioè, lei ha detto che gli immigrati vanno tenuti sotto controllo di più degli altri. O no? Ma certamente, allora guardi, questo è vero, cioè bisogna avere presente delle persone che vengono da altri paesi, sì. quindi da paesi che non sappiamo, che alcune malattie sappiamo che sono ancora presenti là. Noi abbiamo terminato di controllare se abbiamo tubercolosi, abbiamo terminato di fare la vaccinazione per la poliomielite. Perché l'abbiamo terminata? Perché oggi non sono più presenti. Però mi scusi, gli immigrati che lavorano nelle scuole sono la maggior parte sono anche italiani, cioè sono qui da tanti anni. Ma infatti c'è scritto anche straniero. Vabbè, lei pensa che gli immigrati che lavorano nelle scuole della Lombardia, ma possono lavorare in tutta Italia, debbano essere controllati di più perché portatori di malattie diverse dalle nostre? No. È chiaro che quando si usa la parola straniero o malamente extracomunitario, perché le persone... No, scusi, signora Baldini, lei pensa che queste persone vanno controllate di più perché possono portare delle malattie? No, allora vanno controllate, certamente che vanno controllate. Di più? Vanno controllate, ma certamente, ma lei ma sa... Ma come? Perché controlla? Ma queste persone dove alcune malattie sono presenti, sono endemiche nel loro paese, vengono qua e non c'è nessuno. Ma magari è 10 anni che non vanno là, che ne sa lei? Ma appunto io vorrei saperlo, fare il controllo di qualche cosa. Cioè lei vuole fare una sorta di censimento da questo punto? Ma lei, non so se ha figli, ma se va un bambino a scuola, come il caso... Guardi, io ho una figlia di 8 anni che va in una scuola lombarda a Milano. Io manco so, nemmeno so chi lavora nelle mense della scuola, se siano immigrati, se sono di Varese, se sono di Venezia, che me ne frega a me. Però non so se lei sa, lei sa che in Regione Lombardia, in scuola di Regione Lombardia, come in altri paesi, ci sono stati casi di tubercolosi, 3 casi, di cui l'ultimo bambino sul Panorama la scorsa settimana ci ha presentato il caso per buona sanità. Ecco, questo bambino ha preso un tipo di TBC. Lei dice che con gli immigrati in cucina si rischia di più. Non è che dico io, lo dicono i fatti scientifici, cioè lo dicono i medici, lo dicono le realtà cliniche. Cioè con gli immigrati si rischia di più. Ma scusi, quando lei va in un paese lontano, perché fa determinate vaccinazioni? Perché non ci va senza farle? Ho capito, ma uno per lavorare in cucina, per lavorare in una mensa sarà controllato. Avrà le stesse procedure degli italiani. Ma dobbiamo potenziare queste procedure. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Un attimo solo che c'è il traffico. Scusi. Un attimo solo che c'è il traffico. Lei vuole un trattamento speciale per gli stranieri, per gli extracomunitari. Questa è la realtà. Abbia il coraggio di dirlo. Lei vuole un trattamento speciale per gli extracomunitari perché possono essere portatori di malattie più gravi, malattie infettive che non conosciamo, eccetera, eccetera. Una specie di ghetto vorrebbe alla fine, Questa è la mia interpretazione. Si sta modificando e strumentalizzando come usa fare queste situazioni. Lei sta strumentalizzando queste persone. Lei sta utilizzando queste persone. Perché queste persone sono degli extracomunitari, come chiamate voi, che siete razzisti a dire queste cose. Ma veramente perché non queste detto persone, io. Sì, sono. E glielo spiego subito perché un attimo solo che c'è il traffico, adesso me lo spiega. Intanto Renzi dice se il 27 maggio i soldi non arrivano, vuol dire che Matteo Renzi è un buffone. Le zanzare di casa. Allora questo provocherà un po' di casino, perché Renzi a porta cosa dice? Dice che stiamo cercando di rendere visibile in busta paga che i soldi in più che andranno a chi guadagna meno di 1500 euro al mese saranno dovuti al bonus garantito dalla manovra del governo. Mi diranno è marketing, sì, anche questo. Cioè vorrebbe che nella busta paga, con un lavoro che non so se... Ci fosse scritto Renzi, te lo regala Renzi. Grazie, 80 euro regalati da Renzi. Ma dai, ha ridato c'è Berlusca, Tremonti, che ti regalavano la carta almeno, su, il bancomat per i poveri, e c'era scritto Tremonti, ma era più innovativa almeno, su. Devo dire una cosa, se ci riesce, se glielo fanno fare è un genio. Ma che roba, ma cosa vuol soldi gli fanno far cambiare tutte le buste paga con la freccia. Questi bonus soldi garantito dalla manovra del governo. E magari quando uno la apre c'è anche la voce: oh, so io, sono Matteo, t'ho regalato 80 euro, t'ho dato 80 euro, andiamo. So io, sono Matteo de Firenze. La cruda verità, se mi guardi ti giuro mi confondi, ti sento respirare, chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voglio. Allora, mi segnalano, signora Baldini, che in realtà uno per entrare in una mensa, per entrare in una, in un ospedale, sì, eccetera, eccetera, esatto, si deve sottoporre comunque a dei rischi, esatto, a dei controlli. Cioè, perché lei li vuole rendere speciali per quelli che vengono, che ne so, ma dal Congo? Ma mi ero spiegato, scusi, io vedo la cosa dal punto di vista sanitario, perché anche se non è importante per qualcuno, ma io sono una lista civica, di mondo civile, non ho una tessera di partito, capisce? E quindi sono medico e vedo l'aspetto medico. L'aspetto medico è quello di vedere una realtà, sì, una realtà quale che sarebbe? È cambiata. La realtà è cambiata perché i casi di TBC, se lei forse avesse una figlia che oggi va a scuola, ce l'ho, come non... il caso di Milano, come il caso di Milano, una tubercolosi, si trova gli altri. E vabbè, si vede la tubercolosi, signora Maria Teresa. Ma non dico che è normale, che c'entra. La salute delle persone è la cosa più. Allora, sì, ma lei è la stessa. È più stupida che si può dire, perché allora vuol dire che chi dice queste cose non ha capito nulla. Vabbè. Non ha capito. Lei vuole un trattamento speciale per gli extracomunitari. Lei è la stessa persona. Un trattamento speciale, ma per forza deve essere. Perché? Ma perché quelle malattie noi non ce le abbiamo più e lì ci sono, perché sono endemiche da quelle parti. Lei, signora Maria Teresa Baldini, è la stessa persona che qualche tempo fa, propose di chiudere i rom nelle caserme e censirli. Ma l'avete visto il comunicato? Capisce stampa? Che c'è qualche sospetto, caro. Ma era ironico, però, comunque. Ascolti, il sindaco Pisapia dice di ridare le caserme, di dare le caserme ai rom, le immagini, dare caserme ai rom. Ma qual è quel cittadino che vuole dare con i propri soldi, a delle persone e dare le caserme? Ma qual è quella persona con buon senso che lavora, che la sua che vuol vivere in caserma, secondo me? No, ma lei ha detto ironicamente chiudiamoli lei ha detto chiudiamoli allora, dentro. Dico, ma allora se lui vuol fare anche una cosa, mettiamo e vediamo anche se hanno la TBC, in senso ironico. E tutti i polli che cercano sempre. Vabbè, lei un censimento dei rom lo farebbe, Ma certamente che lo farei. Io veramente farei un referendum, su che cosa? Farei un referendum. Li volete o no i rom? Chi vuole rom e chi non li vuole? Perché lei sotto casa sua vorrei vedere se volesse delle persone che sa che vengono qua, che oltretutto dobbiamo comunque... Secondo lei sono tutti ladri rom? Molti sono ladri? Guardi, senta, se lei conosce qualcuno, che qualche rom, che magari ci sarà qualche caso che sì, non è verificato, ecco. Allora, però se lei pensa che i rom non rubano, lei veramente vive di illusione. Come no, io da questo punto di vista sono quasi d'accordo con lei, si figuri, cioè non è quello il punto. Cioè, secondo lei sono, cioè, 99% sono tutti ladri? Ma scusi, la cultura rom è una cultura completamente diversa dal... Cioè di che cosa? Di latrocinio? Allora, comunitario, come le volevo spiegare prima. No, però mi dica questa cosa, la cultura rom è una cultura di gente che... Il latrocinio è una cultura di persone che vivono di accattonaggio, dove si sanno certe cose, lo sa benissimo. Cioè, vivono di reati, di furti. Ma di che cosa vivono? Hanno il furto nel DNA. Vivono anche... Vivono, sa quante persone oggi, anche in regione Lombardia, si trovano a non avere più la possibilità di coltivare la loro terra perché ci sono i rom che sono andati a prendere il rame e interrompere le cabine elettriche. Ma hanno il DNA, rubano nel DNA, hanno il DNA tarato da ladrocinio. Lei vuol portare il discorso del razzismo. No, lei ci va da sola. Ma no, il razzismo. No, non ci vado proprio da sola, perché se lei mi dice razzista a me, lei vuol essere razzista a me, mi spiego bene che è razzista lei quando parla di essa comunità. So perché tutte queste persone che vengono qua hanno un nome, un cognome e un luogo dove sono nati, quindi sbaglio. Beh, certo, ma non c'è dubbio. Vabbè, lei fa riferimento a una persona del Congo. Vabbè, ma ho capito, ma no, mi scusi, pensa la differenza che c'è tra il nord e il sud culturalmente, nel senso, e anche secondo lei bisogna fare, però scusi un attimo, stiamo chiudendo, lei farebbe un censimento dei rom in tutta Italia, cioè per sapere? Io subito lo farei, subito. Ma lo farebbero tutti gli italiani, guardi, lo farebbero tutti gli italiani, perché la realtà di quelle persone, che basta che lei vada in giro e vada non a pontificare dentro chiusi, perché ormai i politici sono tutti chiusi e non vanno a vedere proprio dove si parla con la gente, dove ci sono delle realtà, dove vedi fiorario che ti dice guardi, quello mi ha rubato quello. Ma secondo lei bisogna cacciarli, dall'Italia? Ma scusi, non bisogna, ascolti. No, ma la domanda, bisogna cacciarli sì o no? Gli stessi diritti e hanno gli stessi doveri delle altre. Ma quello è chiaro. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Allora, diciamo subito che sicuramente è comunque una riduzione fiscale, 80 euro, forse 75, anche se secondo me poi alla fine non è che provocherà questa grande rivoluzione nell'economia. Però c'è da dire che qualcosina forse è. Ah, sei tornato indietro rispetto alla posizione di ieri. L'aria dell'Italia ti ha... No. Non bisogna presentarla come una cosa epocale. Però non c'è meglio avere dei soldi che non averli, no? Non c'è nessuna cosa epocale. Non c'è nessuna cosa epocale. Di epocale c'è soltanto il giudizio universale finale. Ecco, appunto. Però questo abbiamo recuperato in realtà questa cosa delle buste paga, cioè della segnalazione ve li ha dati Renzi questi 80 euro, era già nella conferenza stampa di ieri, l'ha detta porta a porta adesso nella registrazione. Però sentiamo questa roba qui che è incredibile, però è l'essenza di Renzi, cioè Renzi vuole che sia chiaro a chi prende la busta paga il 27 di maggio, vuole che sia chiarissimo che quei soldi vengono da lui. Cioè, altrimenti uno vede il netto, dice vabbè, questi 80 euro da dove vengono? Invece lui vuole mettere il timbro, sì, aggiunge, rosso, che si accende anche con le luci. Renzi. Senti. Dico alle italiane e agli italiani che dal primo di maggio in busta paga chi guadagna meno di 1500 euro vedrà. Se mi riesci, dovremmo anche trovare il modo di segnalarlo nella busta paga. Ora ci ragioniamo da qui al primo di maggio, ragioniamo un qualche. No, non voglio dire la svolta buona, però il tema è questo. Capito? Vuole segnalare il nome di Renzi. Vabbè, ragazzi, questo qua è l'essenza del renzismo. Però ci deve spiegare il rapporto che ha con il signor Carrai, perché giustamente Libero ha fatto un'inchiesta e ha scoperto che per diversi mesi Renzi ha occupato una casa a Firenze che è stata pagata da uno dei suoi principali consiglieri, il quale però non è semplicemente un consigliere. Già il fatto che comunque un sindaco si fa pagare la casa da un altro non è bellissima come cosa, ma questo consigliere è anche uno che ha degli incarichi, ha avuto degli incarichi molto importanti dallo stesso Renzi in varie società. Questa cosa qui ce la deve spiegare meglio il signor Renzi, TG3. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. L'Europa guarda con favore al piano Renzi, ma avverte rispettare i patti su conti e debito, monito BCE, nessun passo avanti sul deficit, giù i tassi, BTP. Il Premier, rispettiamo gli impegni, ma anche l'Europa deve cambiare conti in ordine per i nostri figli, vogliamo costruire il futuro, non subirlo. Romano Prodi al TG3, una strategia autorevole per ottenere il sì dell'Europa, furono Francia e Germania a sforare per prima il 3%. 1.000 euro l'anno in busta paga, taglio all'IRAP e IRPEF, Camusso una risposta alle nostre richieste, ma la stretta sulle pensioni solo sopra 3.000 euro. Grillo contro Renzi, dopo Mussolini ci aspetta un nuovo ventennio, Casaleggio non risultano altre espulsioni, Brunetta da Matteo solo annunci. Federica Gagliardi, la donna che accompagnò Berlusconi al G8 in Canada, fermata con 24 kg di coca, mi hanno fregata, si giustifica. Nel napoletano un campo nomadi allestito un anno fa dal comune di Giuliano all'interno di una discarica abusiva, i rom noi trattati da rifiuti, in mezzo ai rifiuti. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Buonasera e buona Padania a tutti. Padania bella e libera. Nuova rubrica, Borghezio chiama, anzi chiama Borghezio. Ieri sera, quando è stata annunciata l'abolizione del CNEL, il centro, che cavolo è il CNEL, il cos'è, non me lo ricordo più che cos'è il CNEL, sono rincoglionito. Consiglio Nazionale Economia del Lavoro. Economia e Lavoro, è un organo costituzionale. Benissimo, inutile, totalmente inutile. Presieduto da signor Marzano. Hanno messo dentro parenti, raccomandati, hanno fatto carne di porco di un organo totalmente inutile. Appena è arrivata la notizia che Renzi volebbe abolirlo, poi campa cavallo. Signor Borghezio si è esercitato nella prima nella prima puntata della nuova rubrica Chiama Borghezio. Sentite cosa è successo, perché a un certo punto è riuscito a farsi passare il portavoce del presidente Marzano. Pronto? Buonasera, sono Gironi, portavoce del presidente. Chi è? Ah, buonasera. Senta, sono l'eurodeputato Borghezio. Buonasera, io non so onorevole. Buonasera, ha ascoltato anche lei la conferenza stampa del presidente Renzi? Sì. E queste notizie, ecco. Io ho una buona conoscenza del CNEL, e perché mi sono sempre interessato degli enti, così, di Stato, eccetera. Sì. E volevo sapere come avverrà la cosa. Avete già avuto notizia? State già preparando i pacchi? Notizia diretta no, perché c'è, come dire, una certa poca buona creanza nel fare le cose senza neanche avvertire prima. Falso che ci sprende. Cioè, non li avevano avvertiti, eh? No. Poi Borghezio continua a parlare con questo Gironi, che è il portavoce del presidente del CNEL, e dice: fino al 2015 questi qua resteranno sulla nostra gobba, i dipendenti. Sentite poi cosa succede. Gli 80 dipendenti del CNEL o li paghi qui o li paghi da un'altra parte, sempre pagarli lì dentro. Continuano sempre a fare un cazzo anche da un'altra parte. Esattamente quello. Poi il Vabbè, allora ci siamo resi conto che di un altro capitolo incredibile del buco pazzesco dei misteri dei ministeri e di tutto quello che viene previsto in questa carta costituzionale piena di enti, di sigle di cui il cittadino non riesce a raccapezzarsi, che non si sa anche bene che cavolo servano. Senza dubbi, poi monta la rabbia di Borghezio a un certo punto. Sentite, è tutto in diretta, eh? Io non so come non si vergognino questi qui che prendono questi 80 stipendi che non servono assolutamente a niente. Ecco, questo pirla qua di Paperopoli adesso si è deciso in ritardo, doveva essere fatto 50 anni fa, era stata una grande stronzata dei padri costituzionali. Questa è la verità. Il CLE non serve a un cazzo, a un cazzo, a un cazzo. Non permettere al tiranno di accecarti. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Che ridi. Massimo da Pavia, dai. Ascolta, c'è che c'è l'ospite qui seduto intanto. C'è sì, dopo lo presentiamo. Massimo da Pavia. Non è un magistrato, quindi non mi arresta. Non ti arresta, eh? Pur essendo in un partito fondato da un magistrato. Massimo da Pavia. Ma non arrestiamo. No, per carità. Massimo da Pavia. Massimo. C'è un Massimo da Roma, se vuoi. Massimo da Roma, va bene lo stesso, qui ho scritto da Pavia. Io sono Massimo da Roma. Va bene, dica. Ascolta, la ministra Madia si chiama? Madia. Allora, ha trovato l'unico lavoro che poteva trovare. Perché? Perché c'è qualcuno in Italia che assume una donna incinta di 16. Beh, ma questo è sbagliato, allora, lei dovrebbe essere contento allora. No, io sono contento. Però che possa fare completamente, sempre, comunque, lo stesso lavoro, senza nessun problema. Però, scusi, il punto è un altro, ragazzi, ma non è una malattia. Chi non le assume, mi scusi, chi non le assume è un malvagio o ha dei motivi? Non lo so, guardi. Lei a Radio 24 si chieda in giro, perché se non si assume una donna incinta di 6 mesi e non l'assume nessuno, e lei lo sa meglio di me, sì, certo, ci sarà un motivo. Questa la assumono perché comunque la ma no, che c'entra? Perché poi uno, se viene assunto, può prendersi un'aspettativa maternità per chissà quanti anni dopo, per le regole diritti. Assurde, regole assurde che ci sono in Italia, assurde. Ah, ecco, però quello. Dico una cosa, però Massimo, assurde. Però scusi un attimo, Massimo, io le dico una cosa. Il punto fondamentale è un altro, perché la signora Comi, eurodeputata di Forza Italia, ieri ospite alla Zanzara, ha detto una cosa diversa. Ha paragonato l'essere incinta a rompersi una gamba. Cioè, essere incinta è come rompersi una gamba. Cioè, essere l'onorevole Comi sbaglia. Beh, questo è il punto. Come sbaglia lei. Ma perché sbaglio io? In che cosa sbaglio? Io posso sbaglio sempre. Ma se fosse vero che una persona incinta può lavorare tranquillamente come qualunque altra persona, siccome gli imprenditori italiani non sono malvagi, assumerebbero donne incinte. Va bene, Massimo. E non lo fanno, e allora ci sarà pure un motivo. Ma certo che c'è un motivo, ci sono mille motivi. Il fatto è che poi una persona viene a mancare dal punto di vista del lavoro. Maurizio, provincia di Varese. Maurizio? Pronto? Sì, dica. Sì, Maurizio, dimmi e chiudi la radio, grazie. Pronto, sì. Sì, grazie. Pronto? Dimmi. Allora, io volevo ritornare sul discorso lussuria. Mi sembra un po' esagerato dare spazio a questo o questa, adesso non so, l'identità sessuale. È andata a Sochi a farsi ridere dietro. Dovevano tenerla in prigione là, ce l'hanno rimandata indietro, ma non riusciamo proprio a liberarcene. Vabbè, se lei si vuole liberare di lussuria, faccia pure. Cioè, è una sua fissazione, un suo tic, una sua malattia volersi liberare di lussuria. Se le dà fastidio lussuria, non la guardi. Quando viene alla radio, spenga la radio. Ma non è mica un obbligo, eh? Va bene, d'accordo. Ma se lei è fissato che bisogna eliminare lussuria o le dà fastidio vederla, spenga la televisione quando vede lussuria in televisione, spenga la radio quando la sente. Oh, disgraziato! Le zanzare, yeah, fanno male, ma lo fanno, yeah, per amore. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Da dove viene Razzi? Da quale partito viene Razzi? Signor Messina, eccolo signor qua. Messina, buonasera. Segretario dell'Italia, presidente, come si dice? Segretario. Per la prima volta abbiamo letto un segretario. Per la prima volta, capito? Scusi, signor Messina, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Da dove viene questo signore che ha sentito prima? Che io ho qua una maglietta qua davanti che mi anch'io ha regalato. Anch'io, me l'ha mandata oggi Razzi, anche a me. Razzi è un abruzzese eletto all'estero, l'ultima volta però eletto in Italia, in Forza Italia, insomma, quindi ma come? PDL. Vabbè, ho capito, però l'avete scoperto voi. No, no, l'abbiamo, è una nostra scoperta, devo dire, ne abbiamo fatte. Di Pietro, devo, è di Pietro. È una colpa di Di Pietro. È una colpa, sì, sicuramente dico, è una colpa, è una scelta sbagliata, non si poteva sapere prima. Se tu scegli un operaio che si è trasferito, emigrato in Svizzera, che è andato lì a lavorare, a cercare lavoro, poi scopri che arriva in Parlamento e diventa Razzi, e purtroppo non lo puoi sapere prima, dico, ma purtroppo l'abbiamo fatta. Come lo considera Razzi lei? Un fuori di testa, un personaggio... Ci fa vergognare sicuramente, è uno che ha approfittato della situazione in cui si è trovato, insomma, alla fine la cosa vera è che poi l'Italia dei Valori ha pagato prezzi importanti e noi siamo fuori dal Parlamento. No, Razzi è ancora in Parlamento, che questo voglio dire. No, il signor Cruciani, dice sempre in questa trasmissione ha votato Razzi. Dice ogni volta meglio Razzi di Renzo Piano tutta la vita. Assolutamente sì, perché almeno la provocazione, anche se oggi è stato ricevuto da Renzo Piano. Sì, per mettere a posto le scuole, perché per mettere a posto le scuole italiane c'è bisogno di un architetto. Dai, su. Anche secondo lei questa cosa qua è una cosa ridicola, me lo dica, signor Messina. No, io credo che sia uno spot come tanti che sta facendo Renzi, quindi questo con gli altri poi alla fine. Ma per mettere a posto le scuole dal punto di vista architettonico italiano, un buon tecnico che metta a posto Renzo in sicurezza Piano, le scuole. Dai. No, credo di no, non serve a molto. Però scusi, a proposito di Razzi, ce ne abbiamo tantissimi in Italia che spesso non hanno nemmeno lavoro, ecco. Scusi un attimo, signor Messina, ma lei che è il segretario dell'Italia dei Valori, ma avete scoperto, mea culpa, mea grandissima culpa dovete fare, in particolare di Pietro, signor Razzi, ma quando dice quelle cose sulla Corea, ma vi fa veramente vergognare di essere italiani quando dice queste cose, secondo lei? Sicuramente sì, noi ce ne vergogniamo più degli altri, perché purtroppo siamo stati chi ha scoperto. Ma lei l'avrebbe scelto al posto di Di Pietro? È un errore tutto di Di Pietro, lei è un po' più attento, No, ma attenti lo siamo tutti, purtroppo prima non li puoi conoscere, devo dire, questo è il problema vero, alla fine purtroppo li scopri dopo. Noi abbiamo bisogno di chiedere certificato penale, l'abbiamo chiesto a tutti, certificato morale non lo riesci a chiedere, questo è il problema vero, e quello sarebbe il primo. Ma lui da si è comprato la candidatura, secondo te, con Berlusconi? Non lo so, credo che alla fine Berlusconi se l'è comprato o no? In qualche modo devo dire che lui ha sostenuto il governo Berlusconi insieme a Scilipoli, ma secondo lei l'ha salvato, se l'è comprato o no? È probabile che abbia avuto un prezzo questo sostegno a Berlusconi. Dico, quindi questo, da questo punto di vista, bisogna chiedere a lui se ha preso dei soldi, sicuramente si ritrova in Parlamento. Ecco, questo è certo. Qua questo non c'è dubbio. Su questo non c'è il minimo dubbio. Devi sapere. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Giampaolo da Verona. Pronto? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì, dimmi volevo intervenire, ma adesso però mi viene da fare un piccolo ragionamento. Ma quel signore che ha parlato prima vuole farci credere che non basta parlare 10 minuti con Razzi per non capire che tipo di persona è. Vabbè, ma questo è successo diversi anni fa. Ragionamenti, dai. Ma guardi, tra lui Scilipoti e quell'altro, se non ci vuole mica un genio per capire che gente era. Ci sono stati un sacco di cambi di casacca in questi anni, Giampaolo. Sì, hanno cambiato in 180 in Parlamento, hanno cambiato in 180. Io non so se lei non ha fatto mai errori nelle amicizie che ha avuto, nelle persone che ha frequentato. A noi è capitato di sbagliare e questa è andata. Dico, noi ammettiamo i nostri errori, sai, io mi preoccupo, io mi preoccupo di chi pensa sempre di aver ragione, di non sbagliare mai. Ecco, quelli mi preoccupo veramente. Vabbè, Giampaolo, che cosa voleva dire? Va bene. Cosa voleva dire? Sempre riallacciandomi a questo discorso qua, il discorso del marito della Mussolini, sinceramente a me lascia più esterrefatto il fatto che sia un ex ufficiale della finanza piuttosto che sia il marito di un'eurodeputata, come il fatto non che non è eurodeputata nostri... comunque sì, ma il punto, è, il punto è molto chiaro. Prima abbiamo discusso con Parenzo anche di questo. Vabbè, un ex ufficiale della Guardia di Finanza, ci sono tante persone della Guardia di Finanza che accusate di qualsiasi cosa. Ma certo, non c'è dubbio, come ci sono anche, come in tutte le comunità, dei delinquenti anche della Guardia di Finanza. Il punto non è quello, non è che un ex ufficiale della Guardia di Finanza non può andare con una baby prostituta o con una ragazzina di 15 anni. Ma no, può, no, ma nel senso che è sbagliato andarci, ma può succedere anche a quelli. Ma ci sono anche ufficiali della Guardia di Finanza che hanno delle perversioni. Ma dovrebbero avere un valore più alto, però morale, dai Cruciani. Ma certo, no, allora vale tutto. Ma siamo d'accordo. Vale che quello si accompagna con la trafficante, vale che un ufficiale che porta una divisa, però, che scusi, rappresenta lo Stato italiano, si faccia i cazzi suoi sempre. Però dai. Giampaolo, siamo nel campo dell'ovvio. Anche in un contesto come quello più istituzionale e più irreprensibile in teoria della Guardia di Finanza, esistono delle mele marce, come si dice, esistono in tutti gli ambienti come dappertutto, per cui non è quello il problema. Con Parenzo discutevamo di un'altra cosa. Secondo lui è sbagliato mettere in mezzo la Mussolini. Ma beh, il problema sì, è molto chiaro, ma è normale che sia così. I congiunti no, di una è persona è normale in un paese malato come questo. Scusa Davide, la responsabilità penale è personale. Dov'è la lista di tutti gli altri? Vabbè, no, ma scusami, la lista di tutte le altre persone indagate per questo orrendo reato, dov'è? Io vorrei vederla quando uno è inviato. Questo giudizio, è vero, ovviamente. Ma è normale che sia così. Ma non è normale. Ma è normale, è inutile che protestano storace su Twitter. A me non interessa nulla la Mussolini, non ho mai votato. Senti, la Mussolini, però, perché vuoi negare la realtà? La realtà è che se tu sei una persona conosciuta, se tu sei una persona famosa, e a me dispiace per la signora Mussolini, però è inevitabile. Se sei una persona conosciuta, famosa, e tuo marito può aver commesso dei reati gravi, è gravissimi. È una barbarie. Ma cosa? Ma è normale che ti mettono in mezzo, che ti citano? È normale che i giornalisti ti seguono e ti cercano per avere le dichiarazioni? Ma di che stiamo parlando? Si può dire è sbagliato. Indagato il marito della Mussolini, quel signore lì ha un nome e un cognome, è indagato. Vabbè, è lui, fino a quando non si dimostrerà che non si dimostrerà che la signora Mussolini sapeva, non ma lascia perdere che sapeva o no, è normale che viene. È un principio di civiltà, non so. Senti, Messina vi darà però ragione o torto, no, qui che no, no. Io ma posso dire, di ragione a me Messina, sì, ma sinceramente do ragione a lei, mi spiace, dico, ma perché a un certo punto è fa piacere quando tu vai a una festa e ti fanno la foto e finisci sul giornale perché sei famoso, e allora devi stare un po' più attento. Ma lui non è famoso, è famosa la moglie. Vabbè, ma ha fatto anche lui, dico, alla fine dico, credo che bisogna stare molto attenti. Io parto dal presupposto che se hai un incarico pubblico devi stare molto più attento degli altri. Però la moglie ce l'ha, e l'ho capito che ce l'ha la moglie. Quindi per lei è normale che venga sbattuta in prima pagina anche sulla Mussolini. Ma certo che è normale. Sarebbe utile sbattere sulla prima pagina anche gli altri, però devo dire a questo punto, questo sicuramente su questo è vero che è evidente che questa notizia sarebbe stata una notizia minore se non ci fosse stato il marito. Ma mi pare talmente evidente che non c'è manco bisogno di discutere di questa cosa qua. Molti dicono c'è un'aggressione nei confronti di Alessandra Mussolini. La mia amica Maria Giovanna Maglia questa mattina sul Libero dice viene aggredita su Twitter. Certo, ha su ragione. Twitter ci sono dei maiali, ma non c'è dubbio, tutti noi li condanniamo. Ma il fatto che venga citata la signora Mussolini, che sia da giorni sulle prime pagine dei giornali, mi pare una cosa perché fa più titolo ma è scontato, per noi una persona conosciuta che ha un marito implicato in una cosa di questo tipo, ma è normale che venga citata? Ma di cosa ci stupiamo? Cioè, ma nessuno qui sta a cercarla per dire vuole fare un commento sul marito? Non l'abbiamo cercata nemmeno noi che facciamo le peggio cose, perché non mi permetto di chiamare la signora Mussolini e dire scusi signora Mussolini, vuole venire a commentare la cosa di suo marito? Questo non lo faccio. Dopodiché registro che la moglie di uno implicato, la moglie famosa di uno implicato in una storia di prostituzione minorile, mi segnalano qui una cosa in più che, come dire, adiuvandum alla tua tesi, cioè che nel 2010 la signora Mussolini era presidente della commissione infanzia, sì, questo mi ricordano. Sì, sì. io dico d'accordo. Vabbè, ma questo tutto l'abbiamo vero, già detto. Tutto questo... vero, lei ha fatto l'elemento. Però che c'entra? Cioè, qui è il marito, è un signore. Ho capito, ma lei è ancora più distrutta perché la sua battaglia politica per la protezione dell'infanzia, per la protezione dei bambini, rischia di essere sotterrata, finita, distrutta da questa vicenda. Lei, ma è normale che la gente associa marito che va con le baby prostitute e tu che hai fatto la battaglia per la protezione dei bambini? È assolutamente normale che uno associ queste due cose e che la vita politica della signora Mussolini sia da questo momento molto in, cioè sia veramente in bilico, cioè può essere sotterrata anche da questa vicenda. Nel nostro paese, se mi è permesso di intervenire, molte cose, la memoria è molto corta, è avvenuto anche per i figli di Pietro, è venuto molto corta la memoria Messina. Alla fine, per i figli di Pietro sì, è venuta su altre cose sì, ma sì però dico non parliamo delle stesse cose, dico no, per certo. Favore no, no, beh, stiamo ovvio. Discutendo no ma tirati in ballo per altre vicende di una, i figli di Pietro di una delle cose più squallide della nostra società che sta purtroppo diventando di moda, questo è il tema. Cioè non mi dica io che secondo lei si dovrebbe dimettere dalla senatrice la signora Mussolini. Ma il problema non è che si dimetta la senatrice. Te, secondo no, lei. Rimanga pure a fare la senatrice, non è questo, però non può certo andare in giro a raccontarla. Credibile. Io credo che la non può andare a raccontarla, che vuol dire? Messa, non può andare in giro a raccontarla. Non può andare in giro a dire che le difende l'infanzia o che ha sicuramente assume delle posizioni forti. Ma perché non può andare in giro a dire che difende l'infanzia? Scusi. Perché io sono convinto che avendo in famiglia qualcuno che mette totalmente in discussione il lavoro che sta facendo rinnega la sua famiglia o di fatto credo che alla fine sia difficile convincere gli altri, ecco questo è il problema, ma lo dico per lei. No, a parte perché, che siamo nelle fasi dell'indagine non c'è niente di provato, anche se i PM dicono che ci sono dati, anche se i PM dicono che ci sono prove, ma mi scusi se domani mattina la Mussolini organizzasse un convegno sull'infanzia, lei andrebbe la ritenerebbe credibile oppure no? Ma sinceramente. Il marito, lei non, che ma c'entra la signora Mussolini? Benissimo, allora provate a organizzare il convegno e vediamo quanta gente ci va. No, vabbè, io non ho capito però questo segno sull'infanzia. No, no, no, no. Facciamo così. No, però è interessante il suo punto di vista. Un attimo solo, un attimo questo solo. Zanzara capricciosa, la zanzara. Allora, se non ve ne siete accorti, abbiamo con noi il segretario forse più sconosciuto di tutti i partiti italiani. Grazie, diciamo la verità. Devo dire da stasera sicuramente uno dei più conosciuti. Però io lo devo dire, però io vedo sempre perché quando vado in ufficio qui a Milano, non so perché faccio una strada che mi porta a vedere due o tre cartelloni con il suo enorme faccione. Come ti permetti? Solo perché sei a Milano e non ce l'hai qui? Esatto. Io ce l'ho in studio il signor Messina. Ma che ho detto, scusa, segretario del enorme faccione. Ma no, enorme faccione perché c'è come il manifesto. Come se fosse grasso. Ma no. Quanto pesa lei, signor Messina, scusi? Ma 83 scarpe. Ma normale, insomma, dai, non sono dai, molto grasso. Sono anche abbastanza alto. Scusi un attimo, sono... ma diciamo la verità, ma chi è il capo dell'Italia dei Valori? Lei o Di Pietro? Cioè, chi è che... Perché non appare mai lei? Va sempre Di Pietro in televisione, come mai? Ma non mi sembra, io credo che in questo momento in televisione si vada poco tutti, devo dire sinceramente. No, ma voglio dire, chi comanda? E c'è un segretario eletto da un congresso col 76% sono stato eletto, che sono io, e una squadra che sta oggi governando guidando l'Italia dei Valori, punto. La cassa tutti chi la iscritti. Tiene? La cassa chi la tiene? La cassa la tiene il tesoriere che è stato nominato dalla nuova segreteria e che coordino io e che è insieme alla squadra che abbiamo eletto, per cui stia tranquillo, insomma, no, la cassa è in buone mani. No, d'accordo, no, io sto dicendo un'altra cosa, cioè, nel senso in buone mani perché prima non era in buone mani, dice lei. No, anche prima lo era, nessuno ha mai discusso. Beh, insomma, c'era una gestione personale, per un certo periodo c'è stato. Vede, è un partito che ha avuto grandi risultati e si è fondato sulla storia di una persona che ha scritto la storia italiana. Detto questo, quindi ora bisogna superare Di Pietro. Ora bisogna superare. È un partito che oggi ma sarà candidato oltre. Alle europee? No, ha dichiarato di no. Io ritengo che alla fine vedremo, insomma, poi dovremo per fare ora liste. Non c'è in per lista. Ora ha dichiarato che lui giustamente ma lei lo vorrebbe in lista o no? Ma a me non darebbe nessun fastidio, anzi è la nostra storia. È chiaro che bisogna andare oltre la storia perché tu vai avanti. Provate a guidare una macchina, no? guardando soltanto indietro, fate 100 metri o andate a sbattere un palo o mettete sotto qualcuno, quindi noi non possiamo solo guardare indietro, la nostra storia è importante, non la rinneghiamo. Ma un po' anzi, la oscura di anzi, Pietro, no, Messina, lei viene oscurato un scusi, po' di Pietro. È molto semplice, qui c'è un uomo politico che è stato per 25 anni ogni giorno agli onori della cronaca partendo da quello che ha fatto da magistrato. Io vedo solo Mani Di Pietro in televisione. Da Mani Pulite, non lo so, allora è un po' distratto perché nell'ultimo periodo, tenga presente che io sono segretario da 6 mesi, non pensi che sono segretario da 6 anni e mi sto confrontando con chi ha un'immagine che aveva da 25 anni formato tutto lì. Comunque lui non sarà capolista, Di Pietro non si presenta insieme. Al Parlamento Europeo. No, capolista no, no capolista no, ha dichiarato che lui, giustamente, vedendo che c'è un progetto che va oltre, lui sosterrà il partito sostenendo i giovani candidati che saranno, nelle nostre liste. Ma comunque, voi che possibilità avete di via 400? Quasi. Ma guarda, io dico con molta serenità: quanto volete prendere? L'uno e mezzo? Mi scusi, prendere il 4% è veramente difficile, ma prendere il 4% non è impossibile. Il problema è il progetto. Noi vogliamo dire una cosa, ma siamo in grado di fare oggi una politica che parli alla gente? No, parlando però, di temi, al di là di questo di qui temi, non è no, ma questo temi qua concreti, non è il... di temi concreti. Se poi dobbiamo andare per spot, vabbè, andiamo per spot. Noi vogliamo avere la presunzione di dire, vogliamo quante convincere. Possibilità ci sono di dare il 4% europeo, Messina? Mi dica, ma guarda, io mi tengo basso e mi do il 20%. Ma quale 20%? Vabbè, grazie. Noi abbiamo fatto purtroppo iniziativa contro il gioco d'azzardo e non posso scommettere certo con lei, però staremo a vedere, dico, perché sa, c'era qualcuno l'altro giorno in Abruzzo. Mi scriva su un foglietto quanto prende. Glielo scrivo, però non vorrei che poi si sentisse male il giorno dopo. Verrà con noi a festeggiare. Scommetto con lei tutti i soldi che vuole. 100 euro su quanto scommette lei? 100 euro. C'ho il foglietto non qua. Non scommetto perché ho presentato il disegno di legge. Ma che c'è? Il gioco d'azzardo. Questo è uno scommetto. Ma no, stiamo scommettendo 100 euro in nero. 100 euro in nero. Vuoi sapere la percentuale? La scriva lì, perché stiamo facendo il avverto l'Agenzia delle Entrate. Stiamo facendo una scommessa in nero col segretario dell'Italia dei Valori. Esattamente, perfetto. Allora, se avevo speranza di prendere il 4%, ora prendo l'8, non c'è dubbio. Scriva 100 euro, io qualsiasi cifra dice lei, secondo me non ci arrivate. Dunque, allora, scommetto 100 euro. Cioè, vuole sapere la percentuale che secondo noi prendiamo alle europee? Sì, mi dica. Ma 4,2. Guarda, scommetto scritto. 200 euro. Lo firmi nero su bianco. 200 euro. Messina. Mi deve dare 200 euro se non arrivano, Messina. Però, in caso contrario, me li dia lei. Però io da lei non li voglio, mi basta un invito a cena. No, presto, arrivederci. Ma è un po' omosessuale, no? No, assolutamente, ma non per cosa, dico, insomma, le mie abitudini sono normali. Vabbè, normale perché sono normali gay? Assolutamente no. Ah, meno male. Assolutamente no. Arrivederci, a presto. A presto. No, il bello è che c'è qualcuno che dice che io sguazzo nel dolore della Mussolini. Dove sguazzo nel collo del dolore di chi? Ma di che stiamo parlando? Ne parlano terribili. Tutti e ne parliamo anche noi. Anzi, adesso chiamatemi quella persona lì. Fabio da Napoli. Anzi no, Nicola da Bologna. Ciao Parenzo, niente, io volevo intervenire per quanto riguarda gli famosi 80 euro che Renzi vuole dare in busta paga già dal 1° di maggio. Sì. Certo, per lei Cruciani, che guadagna 300-400 mila euro all'anno, non saranno un cazzo, però per chi ha uno stipendio, diciamo, normale, 1.000-1.200 euro, rappresentano qualcosa di importante, insomma. Ecco. Sì, ma infatti io prendo in considerazione questa cosa, ma dico anche, che non è lo shock economico, non è lo shock dell'economia. Ma invece secondo me sì, vedremo. Hanno fatto delle manovre da 13 euro, se si ricorda. Sì, come no, Lì era una presa per il culo, mi scusi, ma 80 euro, cioè sono 1000 euro all'anno, voglio dire. Uno si paga l'assicurazione della macchina, faccio per dire. Cioè, deve anche considerare le persone che hanno una famiglia, hanno due figli, guadagnano 1000, 1400, 1500, cioè rappresentano comunque uno sforzo. Questa secondo me se la fa è un'ipoteca sulle prossime europee che quello ci sono. Può darsi, intanto fa vedere una manovra proprio da tasso. Sì, è anche vero che il 27 e due giorni dopo le elezioni europee ha pensato, voleva fare assolutamente questa cosa per la fine di aprile, non ci è riuscito, Invece alla fine arriva alla fine di maggio quando già si è votato. Però certo, veder comparire lì, no, 80 euro grazie al governo, sicuramente un grande spot elettorale. Marco da Bergamo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Parenzo, però ha ragione Cruciani, anche perché la Mussolini ha bacchettato tutti per anni, anche quando però scusi, io non dico per questo, Marco, io non dico perché siccome ha bacchettato. No, ma neanche io, anche perché perché il marito non è lei. Se si scopre che lei andava coi baby prostituti o con le baby prostitute è un altro discorso. Ma il marito non c'entra nulla, per cui quello che lei ha fatto, sicuramente avrà tutta la nostra Ma sto dicendo, Marco, che è comunque un colpo grave a quello che lei ha fatto, su questo non c'è dubbio. A prescindere dal fatto che sono due cose diverse, quello che fa il marito e quello che fa la moglie. Assolutamente. Però comunque immagino anche col carattere che ha questa signora, aver capito che il il marito fa queste cose qua, mi immagino. E poi lei per anni ha bacchettato tutte e tutti, specialmente sul discorso dei minori, quando ricaricava, aveva questa... Ho capito, ma che cosa le vuole dire oggi? Vuole dire la Mussolini, beh, comunque lei non può parlare perché ha il marito, perché il marito che va con le prostitute minorenni, ma no, che vuol dire? È una lezione di vita, lei sicuramente non c'entra niente, però... Come ha detto qualcuno in precedenza prima di me, probabilmente era meglio che si guardava anche in casa, perché anche nei confronti di Vladimir Luxuria magari se le poteva risparmiare, certo? Gli è capitata anche lei, è una bella lezione di vita. Va bene, me, va no? bene. Comunque qui si può dire tutto, Parenzo. Ci possono essere anche interventi così. Qual è il problema? Non ho capito. Come si fa a parlare così? Ma lo sapete, ma qual che è la il Mussolini problema? Ma ha qual buttato è il problema? Fuori di casa il marito, dicendo che la sua vita è distrutta. È una persona che ha dei figli, la signora Mussolini, con questo, con torniamo tre figli, subito, con un attimo, Floriani, torniamo subito. Scusami. Il tuo amico buon anno alle Iene. È il posto giusto per lui. Perché il posto giusto? Perché cos'hai contro le Iene? Non ho capito. Anzi, il posto giusto per lui. Cosa hai contro le Iene? Non ho detto contro, è il posto giusto per lui, perché l'hanno tanato in qualche stupidaggine che ha fatto, sicuro. In quel senso è il posto giusto. E suona con maestria. Ma non ho capito, comunque. Senti che dice, le donne carine sono più avvantaggiate. Dove vai? Quota rosa. E una donna carina ha un vantaggio in più rispetto a una donna bruttina, no? Perché magari è l'amante di Tizio piuttosto che di Caio. Buon anno! Le donne insieme bisticciano. Senti, senti. Se tu vai in un ufficio pubblico, se ci sono tre donne insieme, ce ne sono già due di troppo, perché bisticciano, si fanno i dispetti, fanno versi. Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane. La mentalità del sud più vicina all'Africa. Sofia, portami via, non voglio. Come mi spiega questo dato? Che sono due donne su 51 elette in Regione Calabria. Italia. E la mentalità del nord non è quella del sud. Quindi... No, non mi venga a dire nord-sud, ma è vero, dai. Ma è vero. No, ma è più, il sud è per molti aspetti più vicino all'Africa che all'Europa. Capito? Buon anno. Buon anno. Buon anno. Buon anno, è buon anno. Che devi fare? È buon anno. Buon anno. Nuova rubrica della Zanzara. Trovate un fidanzato. Trovate un fidanzato a Lara Comi. Perché io devo mettere la testa a posto. Oh, innanzitutto ha cominciato a dire che Berlusconi non è il suo tipo. Ci abbia provato con un sacco di donne, eccetera. Non sono il suo tipo. Non è, ah, subito io. No. Io lo stimo tanto. Lui non è il mio tipo, io non sono il suo tipo. Ma questo gliel'ha detto anche lui, chiaramente. No, no, però immagino, nel senso che immagino, no. Con me, cioè, non, ha mai con me non c'è provato. Vieni a casa mia, no. 11, 11 e mezzo. No, al massimo mi dice vieni a casa mia e devi fare una riunione politica. Sono single da 4 anni. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei si va come, da quanto è single? Da 4 anni. Perché io devo mettere la testa a posto. Allora, fatevi avanti, la Zanzara @radio24.it, selezioniamo noi le candidature. Ma lei non ha chiesto sì, questo? Sì, me l'ha detto, mi ha mandato un messaggio, te lo posso far vedere? No, è privato, non te lo posso vedere. Selezioniamo noi le candidature che poi sottoporremo. Con foto vuole anche la foto? Beh, certo, mandate foto, curriculum. Vite. Mutuo esente. No, curriculum vitae per entrare nella più grande competizione dei prossimi mesi. Essere in lizza per la carica di fidanzato di Lara Comi, eurodeputato di Forza Italia. Potete votare anche da casa, poi anche voi avrete l'ultima parola. No, la Zanzara @radio24.it. Sì, poi la gente allegare da casa curriculum e foto, poi decidiamo noi, io e te insieme, se sottoporre queste cose. Perché non è che... lei potrà avere, diciamo, non l'ultima parola l'avranno i radioascoltatori. Cioè, no, lei farà una rosa di. No, scusa. E che casa della libertà è? No, ma che c'entra? No. Non è più casa della libertà. Vogliamo essere la democrazia diretta. Il popolo della Zanzara deve essere protagonista della scelta. Non è che lei decide a lungo. La Zanzara vuole trovare un fidanzato dopo 4 anni di singolitudine. Ma adesso questo. Alla raccolta. Ma lei l'ha detto, Giuseppe, provincia di Chieti. Buonasera, dottor Cruciani. Oh, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Ah. Lo aspettavo. Avanti. Al varco. Senta una cosa. Quel vomito dal sì. cognome mafioso che parlava con lei prima, no? Perché io sono abruzzese, come Razzi. Sì, sì, numero uno. Avete ridicolizzato Razzi. Perché l'avete ridicolizzato? No, io non lo ridicolizzo affatto. No, no, ho la maglietta qua. Ha partecipato. Allora, mi faccia parlare. Razzi è un emigrante, come l'è stato mio padre e mio zio. Ho la maglietta qua. No, allora... Lo sa come lei recita la maglietta? Lo sa come recita? Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Capito? Allora, Crucia, sì. quel mafioso che ha parlato, quello scagnozzo di Pietro... Ma come si permette di dire questo? Dal cognome mafioso sì. e quando parla di Razzi si dovrebbe sciacquare un po' la bocca, ok? Perché un emigrante va rispettato, anche se non sa parlare. Vabbè, che c'entra, va rispettato uno per quello che dice, non perché è un emigrante. Come si fa a dire cognome mafioso? Ma cosa ha detto? Dai, che cosa ha detto? A me va bene tutto quello che dice Razzi di principio, cioè non ha capito ma ancora. Come si permette questo signore qua dal cognome mafioso scagnozzo di Di Pietro? Questo perché non va a contare le unità immobiliari di Di Pietro 42 scagnozzo di Di Pietro è bellissimo di scagnozzo San Salvo. Lo scagnozzo lo riporti in trasmissione questo signore qua, lo scagnozzo di Di Pietro. Questo vabbè, che vuole aggiungere dopo queste cose, Giuseppe? Ma no, non posso aggiungere niente perché sto da... cioè ma guardi, io la radio questa radio la chiuderei anche perché è pagata con i miei contributi. Ma quali sono i contributi? Ma non mi rompa i coglioni, guardi, ma la faccia non finita. Allora, la faccia finita, buffone. Prende i contributi, buffone, imbecille, buffone, ignorante, no, capra. Ma c'è lei. Capra. Ma una capra sarà lei, si faccia una cura ricostituente che l'ho vista alla Gruber un altro po' per andare a puttane, due molli, quattro puttane che c'è, non ce n'è rimasto più, si faccia una cura ricostituente. Ma quale cura ricostituente? Magari fosse così, magari fosse quello il motivo. E poi quando l'attaccano sì. sul punto debole non riesce nemmeno a parlare. Sì, Giuseppe, ma lei quante cose vede? Quante vede la televisione? Si faccia una cura ricostituente, capito? Mi sa che a puttane ci va lei, secondo me, eh. No, è perché non ci va a puttana lei. No, non ci vado, ci sono andato. Mi meraviglio, farà la fine di Giannino, perché Barisone è diventato vice direttore. Lei continua a dire le palle e le cazzate e le male parole. No, continua a battere i record e male parole. Sì. Ma veramente lo sta battendo lei stasera. Dai parolacci. Il record lo sta battendo lei questa sera, ha capito? No, io non sto battendo proprio niente rispetto a lei. Ma lei che mestiere fa, Giuseppe, nella vita? Che io cosa ho una piccola impresa. Ah, di che cosa? Ah, di che cosa? Edilizia industriale. Edilizia industriale. Ma quando lavora, se chiama sempre la zanzara? Quando lavora? Ah, no, io sto a lavorare, sto. Lei sta lavorando? Sì, sì, sì. Ma che cosa è, dipendente? Ma quante ore faccio io? Non faccio 2 ore come lei, no? Capito? Sì, noi facciamo 2 ore e non facciamo un cazzo. E ci danno un sacco di soldi. Invece lei si fa un mazzo. Invece lei si fa un mazzo così e la pagano la metà di quanto pagano me, capito? Vabbè, ma mi devo mettere a piangere che lei guadagna più di me. È stato più fortunato, capito? Ma sto scherzando, Giuseppe, io non capisco per tutta questa sua odio nei nostri confronti, non riesco a capirlo. Ma perché quando uno dice la verità, cioè ma qual è la verità? Qual è la verità? Che Radio 24, ok, è pagato da contributi pubblici. Ma basta con questa storia, ma non è vero, dai, su, smettiamola. Non pigliamo non i soldi dallo Stato, dai. Lo dice lei, no, il saputello. Non è vero, tutto quello che dice lei è verissimo. Vabbè, vuole dire qualcosa a Parenzo, Giuseppe, questa sera, oppure non vuole dire nulla? Con i vomiti io parlo con i vomiti, ma per l'amor di Dio, mi meraviglio come fate a pagarlo, cioè lo vedete ancora lì, ma quella persona lì, ma cioè, non è una persona, che cos'è? È un essere inconsistente, cioè una nullità. Inconsistente. Mandatelo a lavorare. Scusa, sì. Parenzo, tu non vorresti uscire a cena con Giuseppe dalla provincia di Chieti? Guarda, io ho talmente poco tempo. Ma io neanche se la incontro per strada, guardi. Ma neanche un caffè. Io sono un signore, al contrario, ma posso scegliere con chi andare a cena. Di merda. Comunista bolscevico di merda. Fino a quando lavora a Radio 24 e poi comincia a leccare, mo che finisce questa trasmissione, voglio vedere che cavolo fa. Vengo a lavorare nella sua azienda, vengo. Ma lei non sa fare niente. Così la facciamo fallire definitivamente dopo il suo contributo. Guardi, io la metterei veramente a picchi e pali, cioè mezz'ora marca visita su perché non ha mai lavorato, capito? Vabbè, Giuseppe, arrivano candidature per diventare fidanzati di Lara Comi. Attenzione, abbiamo lanciato questo grande concorso. Volete diventare fidanzati di Lara Comi, eurodeputata molto carina di Forza Italia? Mandate la zanzara @ radio24.it, curricula con foto. Ragazzi, state esagerando, cioè c'è uno che mi scrive Lara Comi Contest con curriculum, foto, tutto, cioè c'è gente incredibile che mi chiama. Dai, candidatura fidanzato. Dai, gente che vuole mettere la colonna sonora. Dai, su. Mandate per qualche giorno che ci divertiamo. Mandate il curriculum. Dai, su ragazzi, ma di che stiamo parlando? Questa è la radio. Chi è che mi avete chiamato in diretta? Sì. Va bene, dai, Mario, provincia di Pordenone. Ora, dica. Io volevo intervenire a proposito del marito della Mussolini. Dimmi. Mi sembra di essere davanti al solito linciaggio mediatico. Sì, però vada veloce, Mario. Allora, linciaggio mediatico, poi? Fatto prima di qualsiasi processo. Sì, però abbia pazienza, Mario. Mi scusi che balbetto. No, vabbè, balbetta, uno di solito se balbetta, scusi, per carità, con tutto rispetto. Perché non può chiamare uno che balbetta. Sì, per carità, assolutamente. No, stavi per dire che uno che balbetta non può chiamare la radio. Però uno avverte prima, no? Dice, guardi, ma che avverti? Scusi, sono, guardi che balbetto. Vabbè, dov'è il problema? Non è un problema. Con i suoi tempi lui argomenta. Ma non è un problema, andate avanti pure. No, ma va benissimo, lei può dire e fare quello che vuole. Mario, per carità, mica ci attacchiamo alle difficoltà che hanno le persone, da questo punto di vista. Lei dice che siccome sta avvenendo un linciaggio mediatico, giusto? Sì. Perché non si sa se è colpevole. D'accordo. Diciamo che in questo caso c'è un'indagine, possiamo dire che escono delle notizie prima, durante le indagini escono fuori... C'è un linciaggio nei confronti della Mussolini. Sì, ma lui tu dici... al limite c'è un linciaggio nei confronti del marito della Mussolini, non della Mussolini. Scusami un momento. Il marito lascia della Mussolini... Perdere facciamo web, un po' lascia perdere le schifezze... Mi sembra che tu non capisca. Allora, c'è un linciaggio mediatico. Ogni volta che c'è un'indagine qualcuno fa sui giornali, purtroppo, e qui scopriamo l'acqua calda. Il problema è che in questo momento quella persona lì, questo signore, è... indagato. Benissimo. E allora? Il linciaggio mediatico è nei confronti della signora Mussolini, che viene tirata in ballo come moglie di secondo e viene messo in dubbio, viene messo in dubbio tutto quel che ha fatto sui minori fino a oggi, perché è la moglie di una persona. Nessuno mette in dubbio. Io vedo addirittura un sondaggio fatto sul quotidiano Libero, liberoquotidiano.it. C'è un sondaggio. Se colpevole la Mussolini, dovrebbe lasciare il marito? Vabbè, adesso questo è il sondaggio, dai, un sito web che fa queste c'è cose. C'è un sondaggio addirittura. Vabbè, su ma ragazzi, moglie. Ma è questo, ma ragazzi, cosa? Ho capito, non si può tollerare tutto. Dove però, il 76% dice sì, il 24% dice no. Quando su sei colpevole, secondo voi? Guarda, la Mussolini... che su Berlusconi hanno fatto delle cose incredibili. Adesso tu. Io cosa? Io vado nel merito delle. Per me la responsabilità penale e personale. Non ho mai detto i figli. Lui aveva le sue problemi giudiziari. Era lui, non erano i figli, il marito, la moglie, vabbè, e la Pascale, perdere, la Veronica Lario. Mai mi sono permesso di tirare in ballo la cerchia dei familiari in questa storia. Beh, questo è schifoso. Davide da Torino. Sì, buonasera, io volevo intervenire sempre sul discorso del marito della Mussolini. Sì. Allora, volevo dire questo. La Mussolini ci ha menato il torrone per anni col discorso della famiglia, visto anche il cognome che porta. Probabilmente bisognerebbe anche ricordare che quando è andata la Vespa ha detto meglio fascisti che froci. Ora io non l'abbiamo fatto sentire. Frocio, per quello uno va attaccato. Non sono quello. Né frocio e non sono. Sì, però scusi, perché secondo lei è indifendibile? Cioè perché predicare i valori della famiglia? Perché questa quando andava in giro continuava a... Ho capito, ma non ha fatto niente, che... il marito che avrebbe è fatto... È stata la prima a subirne l'onta, diciamo. Ma è lei che non dovrebbe più avere il coraggio di presentarsi in giro dopo una cosa di questo genere? Ma quando ha sempre solo sostenuto che la sua famiglia, come esempio, era la famiglia tradizionale, la migliore in assoluto, tre figli e via discorrendo. Ma come si fa una signora così, che quando parla oggettivamente sembra più una venditrice di frutta e verdura del mercato rionale che non una parlamentare? Vabbè, questo è un altro discorso, Davide. Io non ho capito. Ricordiamoci che ha tre figli. Aspetta. Ricordiamoci anche che di cui una dell'età delle cosiddette brevi prostitute. Quindi la cautela rispetto vabbè, anche a queste non tre dire figlie. Cose banali. Qui non siamo né a ma porta banali a porta, cose, dai. Che parliamo di vite e di persone. Davide, non dire cose banali. Questo è scontato. Davide, io voglio dire una cosa. Lei dice che la Mussolini prima predicava i valori della famiglia e adesso non ha ma il problema quali che argomentazioni ma l'indagine adesso? Ma questo infatti è un problema per lei, non c'è dubbio, ma è anche vero che l'indagine non è sulla Mussolini, è sul marito, sono due cose diverse, ha capito o no? È vero sì questo, però è anche vero che lei sbandierava il suo modello, quindi e nello stesso tempo quindi la sua famiglia la portava come esempio. In ricordo anche, ripeto, la medesima trasmissione di Vespa dove e adesso si trova in questa condizione. La zanzara è quell'odioso insetto. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Mi ha beccato, mi ha beccato. Senti cosa dice l'arcivescovo di Granada, caro Parenzo. In Spagna. Senti che cosa dice. Allora. Ha invitato le donne a praticare il sesso orale al marito ogni volta che vostro marito ve lo chiede. Ricordatevi che non è peccato se quando lo si fa si pensa a Gesù. Cioè questo ha detto. Chi è questo signore? Potete fare sesso orale a vostro marito, non è peccato se quando lo si fa si pensa a Gesù. L'arcivescovo di Granada, che nel passato, cosa aveva detto? Nel 2009 paragonò l'aborto a un genocidio. E dopo due anni disse che la donna che pratica l'aborto, che abortisce, può essere violentata. Si è lodato Gesù Cristo. Beh no, in questo caso insomma non so. Ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto. Andrea Treviso. Buonasera. Dica. Volevo intervenire sempre in merito alla Mussolini. Io voglio sapere quale sarebbe la colpa. Nessuna, Mussolini. Nessuna. Cioè, è una colpa, se vogliamo, nessuna. Ingenuità. No, ma quello non lo so, non mi interessa saperlo. Non mi interessa. Una persona che non è eretta, ma lei non ha colpa, non si merita un trattamento. E non dico che lo stia facendo lei, non lo dico. Dico qui delle persone che hanno telefonato, quelle stanno facendo degli interventi di merda, che la stanno accusando per colpe che non ha. Chi se ne fotte se suo padre era Mussolini? Chi se ne fotte se lei ha sempre pubblicizzato la famiglia? Bravo. O la sua famiglia come modello ideale. Sì. Lei si è comportata in maniera retta, quale cazzo è la sua colpa? No, ma lei ha ragione su questo, ha ragione al 100%. Ma chi dice il contrario? Io sto dicendo accostare io è un perdigiorno. No, però Andrea, lei ha ragione. Perdigiorno è bello. Però siccome io non sono un perdigiorno, le dico subito. No, le dico una cosa, capisco invece, è inutile che uno protesta contro i giornali, contro le prime pagine, quello è assolutamente normale. Ed è assolutamente normale fare una considerazione. La considerazione è questa: molto probabilmente le battaglie di una vita da signora Mussolini sarebbero, come dire, minacciate, e se vogliamo anche per il futuro, mica per il passato, dal fatto sì, però, di avere una situazione di questo tipo. Siamo dei barbari. Però, lei ha sempre combattuto per le sue idee e con quelle certo. È rimasta coerente. Non è lei l'inquisita o l'indagata, lei rimane una persona pulita. Probabilmente una persona retta, io non so cosa faccia nelle ma non c'è dubbio casa, su questo, non c'è dubbio nella vita privata, però mi sembra sicuramente ne viene lesa la sua immagine. Ma questo è scontato, con le ragazzine, questo è un imbecille che rovina l'immagine della moglie. Ma la moglie la sua vita, in primis la sua vita, la sua famiglia, dopo in ultima istanza lei resta una persona onesta, una persona che faceva delle lotte in cui credeva, probabilmente, certo. Io non mi permetto di mettere in dubbio. Ma in cui crede ancora, ma che c'entra? Ma sicuramente. Ma nessuno dice niente, amico mio, dai. Solo che in questo paese ci si diverte a massacrare le persone, come si fa con Berlusconi, ma è solo un esempio, ma con tutti si tende a processarli, a massacrarli in continuazione, anche magari quando non hanno neanche una colpa, quando anzi manca proprio l'imputazione alla persona, non le si può imputare niente se non un'ingenuità nei confronti del marito. di non sapere chi aveva. Ma quello pianto. Adesso lei fa male anche entrare in queste cose. Io non so se sia stato ingenuo, non so se sapeva, non mi interessa nemmeno. Io sto dicendo no, sto dicendo una cosa, colpa. Andrea, lei ha, io le do ragione al 100%. Parenzo mi ha attaccato semplicemente perché ho notato una cosa scontata, cioè il fatto che i giornali mettano in prima pagina il nome della Mussolini è normale, non è una barbarie, è una cosa normalissima. Va bene. Ma è normale, cioè, che lo mettano. È chiaro che lo si fa. Ma appunto, stiamo parlando, basta, anche noi, non dai. Ci si può, come dire, estrarre. Colpisce dal tutti gioco. Questa vicenda, no? Colpisce però tutti. È talmente sbagliato addirittura arrivare al sondaggio di Libero, secondo voi, vabbè, se il marito. Libero, va bene, va ma non prenderla, faccio una considerazione. Se no, è dillo, sei, se, siete dei barbari. Siete dei barbari a fare un sondaggio del genere. Dillo, dillo chiaramente. Prima. Amici di Libero, liberoquotidiano.it, Parenzo sta dicendo che il vostro sondaggio è una cosa da barbari e dovete toglierlo, dillo ma, chiaramente, ma invece di girare intorno. Io sono libera, non bisogna giro intorno a niente. Considerare che, cioè. Ma non giro intorno a niente, né invito loro a toglierlo, perché ognuno è libero editorialmente di fare quello, vabbè, che gli pare. Ma questo certo, ma figurati se io blocco uno che fa un sondaggio così, ognuno è libero di fare il sondaggio che vuole, ma siamo un liberale, io mica un oscurantista. Dico che io non avrei mai fatto, né mai mi sarebbe venuto in mente di fare un sondaggio se colpevole il marito della Mussolini. Si deve dimettere? Ma che roba è? Ma dillo, siete dei cosa? Barbari, siete dei barbari. È barbarico. È barbarico, cioè, benissimo. È barbarico. Benissimo, adesso lo comunico ai signori di Libero. Ma diglielo, ma sai che me ne fotte? Dico, adesso lo dico ai signori no, di Libero. No, ma così per cronaca. Per fare polemica, benissimo. Nicola polemica. Da Rovigo, Nicola certo. Rovigo. È sì, barbaro. Buonasera. Dimmi. Addirittura gente che pretenderebbe le dimissioni delle Mussolini, ma quanta ignoranza, ma che bestie, porca miseria. C'è di tutto, eh? C'è di tutto. E comunque, guarda, io ho avuto il piacere di conoscerla personalmente, e sono certo della sua integrità morale, e sono convinto che sarà ancora più determinata e decisa a difendere i minori, a difendere chi ne ha bisogno, insomma. E non vorrei proprio essere nei panni di quell'uomo, ammesso che venga accertato, che abbia delle colpe, che vabbè, cioè secondo lei l'informazione come si sta occupando di questa vicenda? Com'è? L'informazione come si sta occupando di questa vicenda? In modo barbaro, come dice Parenzo? Cioè, far presente la notizia, vabbè. Un attimo solo, un attimo. Squilla il telefono della Zanzara, ma non risponde nessuno. Poste Mobile, servizio di segreteria. Luca da Brescia, sempre sto Poste Mobile. Luca da Brescia. Buonasera. Dica. Sono il generale dell'esercito di Parenzo. Beh, siamo al top. Classico. Allora? Allora, vorrei partire un attimo rinnovando il mio che agisce a mia andare insaputa a fare in culo il direttore napoletano. Ancora, e no, basta con questa storia. E anche Barisoni, che ieri hanno tagliato la Zanzara per mettere in onda 20 minuti. Io non conosco questa persona. Il pippone di Renzi, perché diciamo a un certo punto sembrava di essere a scuola, cioè uno esce. Si vabbè, poi dopo aver mandato a fare in culo queste persone, poi. E poi vorrei introdurre una nuova inchiesta. Sì, io non riconosco. Vabbè, l'abbiamo capito. Persona. Dai. Dopo il gay delle piazzole, quella del sesso dei pompini nelle discoteche. Cioè, che succede? Non ho capito. Ma gli dai corda anche. Stanno dilagando, e l'ha riportato il Fatto Quotidiano con un'inchiesta della signora Beatrice Borromeo. Sì, ma non è che ha fatto l'inchiesta sui pompini nelle discoteche. Sì, allora cercate pompino su Google News, c'è il Fatto Quotidiano, sesso 14 anni, gli adolescenti raccontano, eccetera. Vabbè, ma dunque lei propone che tipo di inchiesta, Luca? Non ho capito. Allora, vorrei che Parenzo venisse con me, lo porto nelle discoteche qui della zona del Garda. Ma questo è umanismo. A vedere che ambiente degradato di maiali e se vuole venire anche l'avvocato professor Carlo Taormina a vedere che ci sono delle ragazzine che praticano sesso orale così a maschi compiacenti nei bagni. Vabbè, ma alcune lo fanno, altre non lo faranno. Qual è? Perché secondo lei è un ambiente degradato quello là? No, non è, però insomma diciamo che vorrei che venisse Parenzo a valutare di persona. Non ci penso minimamente. Le grandi inchieste di Parenzo. Grazie, esatto, Luca. Grazie. Le grandi inchieste della lo mandiamo. Edoardo da Torino. Ma io manco conosco questo. Buonasera. Pronto. Dimmi, Edoardo, dimmi. Pronto. Buonasera, ciao a tutti. Volevo dire una cosa in merito alla questione delle donne in attesa di bambino, per cui non vengono assunte. Ecco, io ho sentito una serie di argomenti, ma il motivo, uno dei motivi, almeno per chi è un piccolo imprenditore, non ha 200 dipendenti, ma ne ha solo 2 o 3, è che la persona che va in maternità, tu gli paghi lo stipendio e devi prendere l'altro e paghi 2 stipendi, per essere chiari. Vabbè, perché ho capito, però amico mio, è la realtà, no, è la vita. Ma io ho una segretaria che ha fatto 2 figli, mentre la mia dipendente va benissimo, nessun problema. Ma è per dire che non è tanto il fatto che l'assente ti manca dal posto di lavoro, il problema è che tu quando l'assumi, mentre quella in maternità devi pagare i 2 stipendi, perché se paghi il suo è quello della sostituta. E dunque lei dice: io sono portato a non assumere donne? Non ho capito. Beh, sì, no, credo che molti fanno quel ragionamento lì, soprattutto se una donna giovane manifesta il desiderio di sposarsi per avere figli, e se scelgo la persona meno giovane che magari non fa figli. Questo è il ragionamento. Allora, anche questo voglio dire. Sì, no, ho capito. Roberto Saviano scrive: 24 kg di coca nel trolley di Federica Gagliardi. I trafficanti usano spesso voli diplomatici. I voli di Berlusconi le servivano a questo? Questo scrive Roberto Saviano. Cioè, Roberto Saviano, se non sbaglio, mi sembra che sia lui, sì, 633.000 follower, su Twitter scrive: 24 kg di coca nel trolley di Federica Gagliardi, la famosa dama bianca che ha partecipato con G20 al G20 di Berlusconi, il G8, quello che è. I trafficanti usano spesso voli diplomatici. I voli di Berlusconi le servivano a questo? Giudicate voi. Già sono arrivati, Parenzo, molti curricula, molti curricula addirittura di aspiranti fidanzati di Lara Comi, la quale ci ha offerto ieri questa possibilità, cioè di raccogliere le candidature per diventare fidanzati. Così, no, ma assolutamente sì. Sì, sì, per diventare fidanzati ufficiali di un europarlamentare di Forza Italia. Importante, molto carina, molto bella, e questo ci ha detto ieri. Senti, è single da 4 anni. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei si va come, da quanto è single? Da 4 anni. Chimere, le puoi vedere sparire alla luce del mattino come un sogno. Adesso parla. La zanzara è radio24.it, scrivete. Senti cosa è successo questa mattina a Radio 24 a un certo punto. Gli errori li commettono tutti, Noi in primis. Giornale radio, invece di fuga di gas. Ancora bilancio del crollo di 2 edifici di East Harlem a New York, che è stata causata da un'esplosione provocata da una fuga di gas. È salita ad almeno 6 vittime, così le ultime fonti. Zanzara! La figa di gas, meraviglioso. Fuga di gas. Ma no. Come si dice? Ma come si dice? Certo che è fuga di gas. Fuga. Però hai sentito quel figa di gas? No, non l'ho sentito. Sì. Ornella Vanoni, che ha avuto questa grande conversione. Senti cosa dice. Stavo malissimo e mi hanno portato da questa pastora brasiliana evangelica. Adesso ci ho litigato brutalmente e ho lasciato la chiesa, però una cosa devo dire, mi hanno insegnato la fede, mi hanno fatto capire, intanto conosco la Bibbia molto bene, ho letto i Vangeli e poi soprattutto amo Gesù, mi è molto simpatico, che lui è stanco perché ha camminato e io gli lecco i piedi e penso, tanto da Gesù non si possono prendere malattie. Chiami tu o chiamo io? Fantastico. Vai avanti tu, così ti guardo meglio. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Vai avanti tu, che io rimango. Pastore Butindaro? Sì, chi parla? Qui la zanzara, buonasera. Salve Cruciani, mi dica. Come andiamo, caro Butindaro? Ma no, io vado bene, grazie a Dio. Lo conosce Parenzo? Beh, sì, chiaramente ho conoscenza di lui, perché chiaramente c'è il programma della zanzara, so che siete voi, no, che lo conducete. Beh, sì, tu lo conosci Butindaro? Lei che fa di professione, Butindaro? Ma io sono ministro dell'Evangelo, quindi sono a pieno tempo per... Che vuol dire ministro dell'Evangelo, scusi? Servitore dell'Evangelo, cioè sì, chi praticamente sì, è dedicato alla predicazione dell'Evangelo e quindi della parola di Dio. Della parola di Dio. No, senta, un pastore protestante. Secondo lei, secondo il suo pensiero, secondo la sua filosofia, già abbiamo ascoltato qualcosa, ma vorremmo approfondire. Sì. I gay cosa sono? Gli omosessuali. Caro Butindaro. Allora, come ho detto nella telefonata che voi dite, avete intercettato. Sì. Allora, i gay sono o malati, gli omosessuali sono schiavi del peccato, sì, perché l'omosessualità è un peccato secondo quello che dice la Sacra Scrittura. Cioè, scusi, secondo lei sono schiavi di un peccato, prigionieri, allora, schiavi, di qualcosa, prigionieri. Prigionieri, sì, prigionieri del peccato dell'omosessualità, in quanto sì, la legge di Dio dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si ha con una donna. È una cosa abominevole nel cospetto di Dio. Abominevole. Dunque fa bene Putin a mettere questo paletto che non si può fare propaganda omosessuale, caro pastore. Allora, no? Allora qui bisogna scindere, cioè la sfera della Chiesa e la sfera della politica. Chiaramente le autorità che... Ma lei che legge vorrebbe, lei, Butindaro? Qual è? No, io non parteggio, ascolti. Io, per quanto riguarda le posizioni politiche dei partiti, quelle sono cose loro. Però ho capito, ma lei dal punto di vista biblico, allora, biblico, dal sì, punto di vista biblico, dal punto sì, di vista biblico, l'omosessualità, secondo la legge di Dio, gli omosessuali, quelli che avevano relazioni, gli uomini che avevano relazioni carnali con altri uomini, erano puniti con la morte, secondo la legge di Mosè. Lei vorrebbe la morte? Lei vorrebbe la morte per gli omosessuali? No, no, non ho detto che voglio la morte, badi bene. Ho detto solo però che la punizione da parte di un'autorità civile, sì, degli omosessuali non è una cosa contraria alla legge di Dio. Vabbè, però lo dica fino in fondo, Butindaro. Lei vuole che uno Stato applichi la legge di Dio, diciamola tutta. No. Assolutamente, perché noi non siamo sotto la legge di Mosè, ma la Chiesa è sotto la legge di Cristo. La legge di Cristo non prevede la morte per gli omosessuali. Parenzo, che pensi? Penso che il caso sia grave. Aspetta, Butindaro, un attimo. Sono andato per curiosità sul sito www.giacinto.com. Lui pensa che Francesco, che Papa Francesco sia una specie di sobbersivo, giusto? Sto leggendo cosa scrive. Allora, il capo della Chiesa Cattolica Romana, che noi non riconosciamo come il capo della Chiesa. Vabbè, allora, per lei che cos'è? Un socialista, un comunista, cos'è? Come, che cos'è? In che senso? È un falso ministro di Cristo, perché nel momento in cui si è rifiutato di giudicare i gay, badate bene che la parola di Dio giudica. È chiaro che lui è... Parenzo, chiami tu o chiamo io? No, allora questo signore qua ha un sito dove c'è scritto falso ministro di Cristo. Fermo, Butindaro, non sta facendo la predicazione. Allora, c'ha un sito. Rispondere alle sue domande. Un attimo solo, Butindaro, un attimo. Allora, caro Butindaro, vado per la prima volta purtroppo nel suo blog e leggo chi ha orecchie da udire oda. Lei scrive in questo blog. Dà anche il suo numero di telefono. Ora, siccome è pub, perché lei ha scritto lei il numero di telefono, no? Quindi chiunque può andare e telefonarle. Allora, certo, guardi, amico mio, visto che lei ha pubblicato il suo numero di telefono, l'ha pubblicato lei, io adesso do il suo numero di telefono in diretta, in onda, alla Zanzara, così lei si confronta tutte queste belle cose che dice da oggi fino alla sua, fino a quando non cambierà il numero di cellulare, con tutti gli amici che la chiameranno. Guardi, non ci sono problemi. Allora, il numero di cellulare del signore... Ma io annuncio l'Evangelo. Ma che annuncio l'Evangelo? Un attimo. Si prende le telefonate della gente. Guardi, ascolti. Butindaro, fermo un attimo, che lei... Ascolti, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Prendete nota, amici della Zanzara. Se l'omosessuale, come qualsiasi altro peccatore, si ravvede e crede nell'Evangelo, viene salvato da questa schiavitù, capite? Cioè, voi non vi rendete conto di cos'è l'Evangelo. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni peccatore che crede, capite? Fermo un attimo, fermo. La la la la la la, it isn't getting hard. La la la la la la, you better give it up. La la la la la la. Le voglio presentare, caro Butindaro, una persona che andrà molto d'accordo con lei in questa discussione. Molto d'accordo con lei. Nike, come si chiama? Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, attrice, cantante, bisessuale. E cuoca. La sua ultima canzone. Al pastore Butindaro di fare i budini. Di fare, che è meglio. Cioè i budini in che senso, scusi? I budini, cucinare. Invece di invece di parlare, di mettersi a fare i budini, no? Ah, cioè di mettersi in cucina, dice. No, pensavo ci fosse. Ah, budini butindaro. E sai, signor Rivelli, ma anche secondo lei l'omosessualità, come dice il pastore Butindaro, è una schiavitù da cui si può uscire solamente per. Ho fatto la chiesa, cioè la scuola cattolica da bambina. Io mi ricordo che da bambina, forse mi sbaglio, poi sono ignorante. Sì. Poi sono stata anche deviata, no? Crescendo, ma. Beh, quello sicuro. Mi insegnarono che il Signore vede tutti gli esseri uguali, no? Cioè tutti gli esseri umani sono uguali, tutti i fratelli, tutti uguali, omosessuali o no, budindari o no, e quindi non so perché ci siamo noi per giudicare. Senta, ma lei è bisessuale, signora Rivelli? Ma io perché devo dirle a lei cosa sono io? No, nel senso, se vuoi che saperlo veramente, mi inviti a cena e poi ne parliamo. No, ma voglio dire, nel senso che le piacciono gli uomini come le piacciono le donne, cioè sì, sa sì, come si dice sì, in francese? È un'espressione bellissima che ogni tanto utilizzo in francese. E che si dice à voile et à vapeur. À voile et à vapeur. A vela e a vapore. A Roma si dice ndogoio-goio. Lei è della scuola ndogoio-goio o no? Io sono della scuola che l'amore ti può portare da una parte o dall'altra, cioè amore, no? Beh, ma io sono della sua scuola, devo dire la verità, anche se non pratico l'omosessualità. Non pratico. Però hai mai praticato, tipo, non so. Cosa? Dimmi. Che ne so, forse tu no, ma con qualcuno che lo facesse con te. Vediamo tipo, qualche donna. Beh, siamo al top qui, eh. Ma in che senso? Se sono io che faccio. Facciamo arrabbiare Butindaro. Butindaro, ha sentito la signora Rivelli che dice che ando coglio, pastore. Ascolti, sì. Ma Cruciani. Mi dica, pastore. Le ripeto, non sono pastore. Non mi chiama pastore perché se non ho questo ministero non mi può. È come se io la chiamassi, non lo so, direttore di una. Ma tutta questa rabbia, da dove allora io viene? Aspetta, Nike. Ascolti. Allora, come le ho spiegato, lei mi ha fatto una domanda. L'omosessualità. No, ma ha sentito la signora Rivelli che dice che allora le stavo dicendo che ma non si deve salvare uomini. Anche lei si deve salvare anche lei? No, io sono salvato per la grazia di Dio, il Signore mi ha salvato. No, lei, la lei signora chi? Rivelli si deve salvare anche lei da quello ma che. Ma certamente, come vi dovete salvare te e Parenzo, è chiaro, ma io non siete mi devo perduti salvare, siete dove schiavi del peccato, avete bisogno di ravvedervi e di credere nell'Evangelo per 3, essere 3, salvati 3-1 sì, allora, adesso do il numero io così ci salviamo ma tutti. Il messaggio della salvezza che io porto aspetta per tutti . È uguale per tutti, non è che qui allora io mi concentro solamente sugli omosessuali. Gli omosessuali fanno parte dei peccatori che devono essere redenti, che hanno ma bisogno di essere mai? Redenti. Telefono di casa di questo signore. 06. Aspetta, Butindaro, deve stare ma zitto un attimo. La redenzione è in Cristo, è in Cristo Gesù, sì, mediante la fede in Gesù. Quindi se voi avete bisogno di essere salvati, non ve ne rendete conto probabilmente, ma voi siete sulla strada dell'inferno, perché tutti i peccatori vanno all'inferno. Signora Rivelli, fermo un attimo, Butindaro, Rivelli si sente sulla strada dell'inferno, ha bisogno io di essere salvato. Io sto bruciando tutto da un sacco d'anni. Possiamo andare a fare una terapia di gruppo da lei? Noi però siamo. Io mi ricordo, certo, quando volete, ma io mi ricordo anche che il Signore alla fine ammette ogni peccato, non c'era anche questa cosa qua, tipo, che alla fine negli occhi del Signore siamo tutti figli di Dio, no? No, Butindaro, non c'è questa cosa, certo, qua che siamo tutti uguali, omosessuali o non omosessuali. Perché lei attacca Papa Francesco perché tratta gli omosessuali? Ma adesso chi è Butindaro? Ma signor Cruciani, allora non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, come peraltro afferma Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana. Figlioli di Dio si diventa mediante la fede in Gesù Cristo, solamente mediante la fede in Gesù. Tutti sono creature di Dio, ma solamente mediante la fede in Gesù si diventa figli. Quindi sbaglia Francesco anche quando si definisce fratello dei musulmani, perché cristiano non si può definire fratelli di quelli che negano il figliolo di Dio, cioè che non credono che Gesù Butindaro, è figlio di Dio. Si fermi un attimo. Allora, signora Rivelli, lei una veramente seria. Ha qualcosa da farsi perdonare? Quando Maddalena ha pulito i piedi di Gesù, ma era una peccatrice, se fosse stato un trans non gliel'avrebbe fatto. No, dire. Non entriamo in queste cose qua, se no entriamo nella per carità. Allora, voglio chiedere una cosa. Lei, per quello che fa, ogni tanto si spoglia anche su YouTube, si vedono dei perché filmati. Lei non si spoglia mai? Lei va a dormire vestito? Magari non no, su YouTube, sì, ecco. Però magari non metto il filmato su YouTube, però va bene lo stesso, va io benissimo. Io non lo metto su YouTube, io l'ho messo sul mio Instagram, su YouTube ce l'hanno messo gli altri. Vabbè, su Instagram è uguale, su. No. Ma anche un come l'Instagram si mette una foto e video. Vabbè, poi è circolata, però è circolata, insomma. Cioè, sapeva no. Che sarebbe circolata. Non lo era mai, lo circolata all'improvviso. Ci sono anche delle foto, ci sono anche delle foto, gli animalisti sono arrabbiati perché lei. Perché il mio cane ha partecipato al mio video in casa, nel mio salotto, lo so. Esatto, gli animalisti sono. La prossima volta lo lascio in cura al signor Butindaro. Così lui se ne occuperà meglio. Butindaro, anche queste cose devono essere sottoposte al perdono del Signore. Quali cose specifiche? Che cosa? Ma che ne so, quando uno per esempio si denuda in un video su YouTube. Ma, lei... ma certamente, bisogna chiedere perdono. Ma sono pratiche pagane, concupiscenze della carne, sono cose chiaramente pagane, che non fanno parte, diciamo, del camminare per lo spirito, ma del camminare secondo la carne, e quindi carne, chi le fa si deve ravvedere, si deve convertire, sono opere malvagie. Opere malvagie. Non è che si intende solo l'omosessualità. È chiaro, anche il nudismo praticato, è ovvio, è un'opera della carne, sono tutte opere della carne da cui coloro che le praticano si devono ravvedere e convertire. Va bene, ho capito benissimo. Noi però insieme alla signora Rivelli / Nuti non ci vogliamo convertire, vero Rivelli? Lei sto dicendo, signora Rivelli. Noi non ci vogliamo convertire, ma lo sai che è una voce ma lo sai che è una voce veramente bella? È una voce veramente, è una voce molto bella, è la molto, voce della seccatrice. Molto romana. Beh, vero? Simile a quella della mamma. Una voce profondamente romana, molto simile. I can be very international if you want, you know. We can make it very American because il diavolo è entrato in me and I speak languages now. Ma com'è che si dice il diavolo entra? Dillo in inglese, che mi fai eccitare. The devil is inside. It's inside me. It's burning. I'm burning. Where is Budindaro? Budindaro, help me take the fire away. A domani 18:30, ti do un bacio. Ciao. Ancora bilancio del crollo di due edifici di East Harlem a New York, che è stata causata da un'esplosione provocata da una fuga di gas. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali.